Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Istituti tecnici, ne abbiamo parlato spesso qui ad Obbligo di Frequenza, torniamo a farlo oggi perché qualche giorno fa il governo ha approvato i due regolamenti che li riformano insieme agli istituti professionali. Ecco come saranno. I nuovi istituti tecnici sono strutturati in un primo biennio, teso all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Un secondo biennio, invece, in cui gli studenti scelgono un indirizzo più specifico. Un quinto anno che si conclude con l'esame di Stato. Nelle commissioni possono essere inseriti anche esperti. I nuovi tecnici si dividono in due settori, economico e tecnologico, ed avranno un orario settimanale di 32 ore di lezione di 60 minuti. Nel settore economico sono stati inseriti due indirizzi, amministrativo-finanza e marketing-turismo. Nel settore tecnologico sono invece 9 gli indirizzi, meccanica, meccatronica ed energia, trasporti e logistica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione, chimica, materiale e biotecnologie, sistema moda, agraria e agroindustria, costruzioni, ambiente e territorio. I nuovi tecnici hanno un'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi. Poi avranno anche distinte aree di indirizzo più legate alle realtà territoriali specifiche. Questa è dunque la sostanza, ma saranno meglio o peggio i nuovi istituti tecnici? Sentiamo cosa ne pensano alcuni dirigenti scolastici. Verona, Istituto Tecnico Industriale, Liceo Tecnico Galileo Ferraris, il preside Dino Poli. Premesso che non sappiamo ancora bene perché la cambiano ogni giorno, ma diciamo i punti di forza sono riduzione del numero delle specializzazioni, perché non interessa avere il ragazzo specializzato, andrà a lavorare e il suo settore sarà uno dei 9 settori e poi l'azienda o la piccola specializzazione si arrangia. Il numero delle ore ridotte è un punto di forza, perché non si può stare a scuola mattina e pomeriggio a fare sia teoria che pratica. La centralità dei laboratori, io l'ho già provata con la sperimentazione del cosiddetto 2002 che avevamo fatto, io l'ho cominciata nel 97 e pare che tutto funzioni. Qual è la sperimentazione che l'ha portata avanti? L'avevamo fatta nel 97 con il ministro Berlinguer ed era una delle sperimentazioni di riduzione della complessità, diciamo, e di attenzione a ristrutturare i percorsi individuando le competenze di arrivo di ogni argomento su cui poi si facevano le prove, le misure, e ho visto che i ragazzi arrivano, sanno quello che devono sapere, insomma. I nuovi istituti tecnici dovrebbero garantire anche un maggior contatto, una maggior vicinanza fra le scuole e il territorio in cui risiedono. Secondo lei questo può essere garantito attraverso questo nuovo disegno? Beh, certamente c'è un impegno delle aziende molto più grande di prima, poi comunque io sono partito immediatamente mandando tutti i ragazzi in uno stage aziendale di almeno un mese all'anno e questo dà dei grossissimi risultati, perché i ragazzi si accorgono subito di quali sono le esigenze del mondo del lavoro, che non sono né più complicate né banali, insomma sono sempre, poi le aziende sono di diversissimo tipo, quindi un ragazzo va da una parte e un ragazzo va dall'altra. I sindacati dicono è solo un modo per ridurre il personale. Questo è un problema, ma non è solo così, perché per fortuna non è solamente una banalità prodotta da chi voleva solo ridurre le spese, ci abbiamo studiato per moltissimi anni sopra questo argomento. Per esempio il Collegio dei Periti ai primi anni ci diceva non è possibile preparare un libero professionista con un numero così ridotto di ore. Passati 2 anni hanno dovuto ricredersi, perché dipende dalla preparazione del ragazzo, non dal numero delle ore. Dipende più da cosa c'è dentro quelle ore, probabilmente, certo, dalla qualità. Strutturarle bene, sono dei modelli. Se vuole facciamo un esempio di italiano, che tutti capiscono. Io non posso affrontare in un tecnico tutti gli autori, ne affronto alcuni che sono un modello per capire meglio le cose. Lo stesso per la tecnologia. Si parla molto dell'utilizzo di laboratori, ma le scuole avranno i soldi per attrezzarli? No, il problema è questo, che siamo senza soldi, però per fortuna li avevamo già attrezzati un po' dopo. Adesso speriamo che le aziende possano entrare nelle scuole in questo senso, come consulenti e anche come sponsor, perché ci sono delle spese esagerate, ci possono essere, ma ci sono delle spese necessarie e indispensabili che bisogna fare. Su questo però sarà un altro capitolo, vediamo cosa viene fuori dalle varie studi che si possono fare, insomma. Lei dice, visto che non arrivano dallo Stato, i soldi si spera che arrivino dalle aziende. Ah certo, o anche dalle famiglie. Noi abbiamo fatto pagare dei corsi di recupero ai ragazzi parzialmente, però deve essere sempre un diritto allo studio, se perdiamo quello chiudiamo. Torino, Istituto Tecnico Avogadro, il dirigente scolastico Alfonso Lupo. Questo regolamento, insomma, è valido come impostazione? Allora, la risposta, a mio avviso, modesto, è sì. Una delle prime caratteristiche positive è il rilievo nell'aver avallato il discorso della didattica laboratoriale, quindi con l'aumento del numero di ore di laboratorio, anche perché negli istituti tecnici, in questo, io parlo degli istituti tecnici industriali, è fondamentale il fatto che si parta nell'insegnamento dall'esperienza, dal laboratorio proprio. L'altra caratteristica fondamentale che io vedo è quella di aver dato finalmente, diciamo, risalto al fatto dell'esperienza che abbiamo già fatto noi, che era quella dell'alternanza scuola-lavoro, in qualche modo viene recepita. E questo è fondamentale perché negli istituti tecnici industriali il rapporto con il mondo del lavoro è molto, molto sentito. Poi si parla che c'è più inglese, ma io avrei preferito che si arrivasse a un altro tipo di conclusione, che un insegnamento venisse insegnato in lingua inglese, che è diverso. Quindi da questo punto di vista si poteva fare un passo più coraggioso? Un po' più coraggioso, esatto. L'aspetto positivo lo vedo nella flessibilità, perché la flessibilità dell'offerta formativa che viene offerta, diciamo, da questo impianto che considera, diciamo, spazio di flessibilità col 30% nel secondo biennio e il 35% al quinto anno, facendolo interagire, adesso non so in che misura interagirà, con l'altra quota del 20% di flessibilità che l'autonomia permette di fare, sicuramente gioca a favore di particolare articolazione all'interno delle aree di indirizzo. La sua scuola, per esempio, sarebbe pronta a recepire un disegno di questo tipo, queste novità? Sì, io ritengo di sì. C'è tutto l'altro risvolto, purtroppo in negativo, la domanda che ci si pone è come si arriva a questo impianto o se questo comporterà decurtazione di organico, fonti non sufficienti e quant'altro. C'è un conto che io mi sto pronunciando positivamente nei confronti della progetto, riforma, del progetto, certo, eccetera. E le poi applicazioni però pratiche sono un po' diverse. Mi riservo ovviamente di dare un altro tipo di, diciamo, contributo di idea per la realizzazione pratica. Perché se non arrivano i soldi per far funzionare i laboratori, insomma, se ne può parlare tanto, ma poi l'applicazione pratica concetto, è un po' diversa. Il concetto è validissimo, no? Si va anche incontro ad eventuali sprechi che sono state fatte nel passato e questo me ne rendo conto e mi esprime il concetto dicendo che il discorso delle tre figure che ruotavano attorno al laboratorio sono stato sempre restio a questo tipo di utilizzo, mi spiego meglio. All'interno del laboratorio erano presenti l'insegnante teorico, l'insegnante tecnico pratico e l'assistente tecnico di laboratorio. Ora io credo che sia unanimemente condiviso il fatto che una delle tre figure era di troppo. Per cui, a mio avviso, questo tipo di riforma che va nel senso di in qualche modo diminuire il personale che lavora contemporaneamente all'interno della stessa ora, la reputo positiva. Ed ora a Bergamo, Istituto Tecnico Paleocapa. I bergamaschi lo conoscono con il nome di Esperia perché alla fine dell'Ottocento, poco distante, l'azienda meccanica SAL produceva una macchina con questo nome. Il dirigente scolastico Michele Nicastri. Diciamo che da quello che si può evincere dai documenti attualmente disponibili, che è una riforma che come istituti tecnici aspettavamo da anni, quindi in termini generali è un fatto positivo. Rimangono alcuni aspetti ancora non secondari che possono avere, a mio parere, una grande rilevanza, cioè quando non vengono definiti in questa prima fase, per esempio, le effettive ore di laboratorio, rappresenta questo dato, la mancanza di questo dato rappresenta una criticità, perché non si può sostenere che adesso aumentano le ore di laboratorio soltanto perché dovrebbe passare la didattica laboratoriale. Cioè, voglio dire, se dentro ci mettiamo le ore di italiano che vengono fatte in laboratorio o le ore di storia, allora sicuramente aumenteremo le ore di laboratorio. Però noi non sappiamo, nell'ambito delle 15 ore previste per le materie di indirizzo, come sarà articolata il rapporto tra teoria e pratica, che è uno dei fattori qualificanti dei nostri indirizzi. Un'altra criticità, io lo vedo per esempio quando si parla dei nuovi organismi, per esempio quando si parla del CTS, che secondo me potrebbe essere un argomento, un'innovazione molto importante perché apre al territorio. Si dice per esempio in un passaggio che tutto questo avviene senza oneri per la finanza pubblica. Allora io trovo molto singolare che si voglia fare l'innovazione senza metterci soldi, cioè questo mi sembra veramente uno dei difetti italici, per cui vogliamo far vedere che facciamo l'innovazione però non mettiamo quelle risorse, tenendo conto che le risorse ci dovrebbero essere, visto che semplicemente la riduzione da 36 a 32 ore, senza entrare nel merito delle compresenze, produrrà sicuramente delle economie, e quindi queste economie, anche volendo fare una politica di risparmio, di supporto alla finanza pubblica, potrebbe essere anche dedicato, non so, al 50% a risanare la finanza pubblica, ma al 50% anche all'innovazione. Cioè l'innovazione si fa con la formazione dei docenti, dei dirigenti, ma se queste risorse non vengono messe in campo mi sembra una dichiarazione di intenti. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.